Tra cui Davide Vannoni, l'accusa è associazione a delinquere, si parla di danni ai pazienti. Tra poco le dichiarazioni di voto, poi nel pomeriggio la fiducia, il decreto lavoro alla prova dell'aula della Camera, pronta la battaglia in Senato. Sta per essere spento l'alto forno dell'acciaieria di Piombino, il Papa riceve un video appello degli operai e ne parla durante l'udienza, prego per voi. Dopo le polemiche Renzi rinuncia a partecipare alla partita del cuore, il paese non merita polemiche così ridicole, lasciamo le meschinità a chi se le può permettere, dice. Ancelotti contro Guardiola in quella che molti chiamano la finale anticipata di Champions, questa sera in campo Real Madrid contro Bayern e Monaco. Il carnevale di Viareggio a rischio, il comune non ha i soldi per il contributo annuale e chi ha realizzato i carri aveva già anticipato i soldi per costruirli. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, alle notizie in 60 minuti che se volete come sempre potete commentare al 349-238-6666 oppure scrivendomi su Twitter, mi trovate Simone Spezia, oppure per osservazioni o tutto quello che volete c'è l'email effettogiorno@radio24.it. Partiamo dalla vicenda Stamina. Associazione per delinquere. È questo il principale capo d'accusa che il procuratore Raffaele Guariniello contesta ai 20 indagati dell'inchiesta Stamina. L'avviso di chiusura delle indagini prelude ora la richiesta di rinvio a giudizio. Gli indagati, in pratica tutta la squadra di Vannoni, avranno adesso 20 giorni di tempo per chiedere di essere interrogati e presentare memoriali difensivi o altri documenti. L'inchiesta si era già formalmente chiusa nel 2012, ma nei mesi successivi Guariniello aveva continuato a fare altri accertamenti. Alcune posizioni sarebbero state stralciate. Secondo la Procura di Torino, non solo non ci sono stati miglioramenti nella salute dei pazienti sottoposti alla metodica Stamina di Davide Vannoni, ma al contrario si sono verificati eventi avversi in un numero significativo di questi. Inoltre ha contribuito a creare un clima di tensione sociale, di falso allarme con manifestazioni pesantemente critiche nei confronti delle istituzioni come il Presidente della Repubblica. Il Ministro della Salute Lorenzin commenta così: non sono molto stupito. Vedremo l'esito del processo, l'importante è che ne esca chiarezza, perché qui le vittime sono le migliaia di persone che hanno creduto di poter avere una cura. Intanto i lavori della commissione scientifica che deve giudicare sul caso Stamina vanno avanti. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo alla politica, o meglio alla politica economica e al decreto lavoro. Oggi alla prova della fiducia. Facciamo innanzitutto il punto politico col nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Voto di fiducia che non dovrebbe riservare sorprese, Simone. La forte polemica con il nuovo centrodestra sembra infatti rientrare qui alla Camera per spostarsi al prossimo ostacolo che sarà il voto al Senato. Il nuovo centrodestra, ha detto Alfano, voterà la fiducia al decreto e al governo del cambiamento di cui l'Italia ha bisogno, linea della responsabilità anche per scelta civica. Ottimismo sull'esito del voto anche da parte del Ministro del Lavoro. Credo che siamo nelle condizioni di chiudere con un decreto assolutamente di valore, ha detto Poletti, che poi, proiettandosi al prossimo voto del Senato, ha aggiunto: non credo che sarà necessario un miracolo, penso che le distanze siano assolutamente alla portata. Distanze, Simone, ricomposte negli scorsi giorni anche con la minoranza del PD, fortemente critica con il testo uscito inizialmente da Palazzo Chigi. Le ultime modifiche però fanno dire a Fassina si è arrivati a un compromesso utile grazie agli emendamenti approvati dalla Commissione Lavoro. L'opposizione, Brunetta, Forza Italia, parla però di imbroglio sul precariato, sarà un Vietnam, dicono dal 5 Stelle. Simone. Sì, Vincenzo, allora ci vuoi riassumere però quali sono le modifiche effettivamente intervenute rispetto alla versione iniziale del decreto, quella che è approvata in commissione? Sì, cosa è cambiato? Nel mirino di nuovo centrodestra e scelta civica, Simone, non è finita tanto la revisione per i contratti a termine del numero delle proroghe possibili nell'arco di 36 mesi che, ricordiamo, scendono da 8 a 5, così come richiesto dai Dem, la minoranza del Partito Democratico, bensì il pacchetto di modifiche sull'apprendistato. A non convincere è il ritorno rispetto alla prima versione del testo della formazione pubblica obbligatoria, che prevede un ruolo preminente delle regioni con tutte le differenze di efficienza che sappiamo esserci poi tra le realtà locali, una via d'uscita che potrebbe trovarsi al Senato, idea questa del Ministro Poletti, che sia possibile scegliere per l'apprendistato tra la formazione aziendale o regionale. È tutto. Grazie al nostro Vincenzo Miglietta. Altra polemica politica di queste ore riguarda la partita del cuore di questa sera. Sentiamo. Troppe polemiche ridicole dal Movimento 5 Stelle. Matteo Renzi spiega così la sua decisione di non partecipare alla partita del cuore. Il Premier dunque non sarà in campo accanto ai big del calcio nella sua Firenze per l'evento, il cui incasso quest'anno andrà all'associazione Emergency di Gino Strada. Renzi non rinuncia però a replicare agli attacchi dei grillini che avevano bollato la sua partecipazione all'iniziativa come una mossa elettorale. Ho deciso di non giocare, ma sono il presidente del Consiglio di un paese che non merita polemiche così ridicole. Il Movimento 5 Stelle non ha paura di me come calciatore, ma di chi vuole cambiare l'Italia, scrive il Premier su Facebook. Grazie alla rabbia e alla paura dei grillini, per la prima volta si sporca un evento come la partita del cuore che da anni unisce gli italiani, scrive Renzi. Strumentalizzare gli 80 euro, i segreti di Stato, gli investimenti sulle scuole è ancora polemica politica, ma strumentalizzare la beneficenza no, aggiunge il Premier che, nonostante la sua assenza, invita comunque i fiorentini a riempire lo Stadio Franchi e a mostrare la loro generosità. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ultime due notizie di politica che vi vogliamo dare, almeno per il momento, poi ci torneremo più avanti. Innanzitutto è questa lettera che ha scritto Sandro Bondi alla Stampa, nella quale dice che la sua impressione è che il centrodestra non solo sia diviso, ma soprattutto sia privo di una strategia per il futuro, e auspica che Silvio Berlusconi sostenga quando necessario Matteo Renzi. Sta facendo molto discutere, naturalmente, soprattutto all'interno di Forza Italia. L'altra è una buona notizia che arriva per quanto riguarda le condizioni di Marco Pannella, che verrà dimesso oggi dall'unità di rianimazione diretta da Massimo Antonelli del Policlinico Gemelli. Le funzioni cardiocircolatorie e respiratorie sono buone e già dalle prime ore di ieri in respiro spontaneo senza ossigeno terapia. Veniamo alla chiusura, allo spegnimento dell'alto forno di Piombino, che è stata tra l'altro al centro di un appello del Papa oggi, che a sua volta aveva ricevuto un video appello degli operai. Ci colleghiamo con Firenze con Ubaldo Cianciulli. Ubaldo, buongiorno. Sì Simone, buongiorno. In questo momento l'AFO, cioè l'altoforno, è in stand by, cioè addormentato, e potrà rimanere in questo stato per 25 giorni, dopodiché non sarà più possibile riaccenderlo. I lavoratori della Lucchini sono in assemblea permanente davanti all'impianto siderurgico e chiedono un intervento da parte del governo per scongiurare lo spegnimento dell'altoforno, che decreterebbe la fine di un settore che è stato tra i più produttivi in Italia e in Europa e che rischia di mettere in ginocchio 1.400 lavoratori, compresi quelli dell'indotto. La Regione Toscana è disposta a finanziare la riconversione dello spegnimento con 60 milioni di euro, ma all'incontro il Ministero ha chiesto fondi per la bonifica del polo siderurgico e le infrastrutture, ma anche l'impegno a far restare i lavoratori nell'attività di bonifica e l'impegno del Ministero della Difesa a utilizzare il porto di Piombino per la rottamazione delle navi militari. Dicevi del Papa, sì, anche il Papa ha preso a cuore la vicenda degli operai della Lucchini, rispondendo al termine dell'udienza generale del mercoledì al videomessaggio che gli avevano inviato, e ha usato parole di conforto: sono triste e prego per voi, non scoraggiatevi, ha detto, e a tutti i responsabili chiedo di aprire gli occhi e di non rimanere con le mani incrociate. Per il momento i lavoratori potranno usufruire dei contratti di solidarietà, ma chiedono di tenere acceso l'altoforno almeno fino al 30 maggio, giorno di scadenza per la presentazione delle offerte vincolanti per l'acquisizione dello stabilimento. L'ipotesi del gruppo arabo SMC sembra tramontata e per ora resta in piedi soltanto quella della società indiana JSW. E per il momento tutto, fino allo studio. Grazie a Ubaldo Cianciulli. Ebbene, ci parlavi del Papa, arrivano notizie per quanto riguarda la beatificazione di Roncalli e Wojtyla, prevista come sapete per il 27 aprile, si svolgerà il 27 aprile la cerimonia. È appena arrivata la notizia che sarà presente alla cerimonia anche Benedetto XVI, lo dice in una conferenza stampa chi sta organizzando la beatificazione. Dice: Roma vedrà un evento che mai nella storia della città è avvenuto, due papi vivi e due papi santi. Immagino l'emozione di Francesco e Benedetto. A proposito della beatificazione, c'è in ballo la minaccia di uno sciopero dei vigili urbani proprio per quel giorno. Parleremo più avanti col sindacato dei vigili urbani. Veniamo invece a quello che dice Eurostat sulle condizioni economiche nostre e dell'Europa, e naturalmente sulle condizioni del nostro debito pubblico e del nostro deficit. In collegamento da Bruxelles il corrispondente del Sole 24 Ore, Beda Romano. Buongiorno Beda. Allora, quali sono i dati? Ma i dati mostrano abbastanza una situazione molto molto incerta, perché il deficit nel 2013 a livello della zona euro è calato, ma il debito è continuato ad aumentare ed è poco sotto ormai il 100% del prodotto interno lordo. Questa situazione evidentemente non è positiva, perché con un debito così elevato è molto difficile per l'unione monetaria crescere a sufficienza proprio per ridurre il debito, quindi siamo in una situazione di circolo vizioso. Ci sono enormi differenze fra i paesi, ci sono almeno 7 paesi con un deficit sopra il 3% del prodotto interno lordo, che è il vecchio criterio di Maastricht, ma ve ne sono addirittura uno in attivo, che è il Lussemburgo, e uno praticamente in pareggio, che è la Germania. Quindi i dati in sé mostrano una situazione ancora molto incerta sul fronte delle finanze pubbliche europee. Grazie a Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Nave Aliseo, impegnata nell'operazione Mare Nostrum, ha soccorso 169 migranti, tra cui 16 donne e 64 minori. Questo è avvenuto questa mattina. Intanto il vice ministro degli interni, Filippo Bubbico, interviene a 24 mattino proprio sull'operazione Mare Nostrum e sull'emergenza sbarchi e dice: non lasceremo soli i sindaci. Sentiamo. Questi sindaci saranno lasciati soli? Assolutamente no. Qualche giorno fa si è tenuta una conferenza unificata nella quale sono state definite e codificate le modalità operative e abbiamo garantito anche la totale copertura delle spese sostenute, anche perché contiamo su importanti aiuti comunitari. Voglio aggiungere... Abbiamo davvero pochi secondi, eh? È aumentato di molto il numero dei richiedenti asilo e altra cosa importante, il Parlamento europeo ha votato un orientamento per unificare le procedure di accoglienza in tutti i paesi europei. E qui ritorniamo. Da questo punto di vista viene segnalato come esempio positivo e anche Frontex, cioè l'Agenzia di Tutela delle Frontiere, non pratica più respingimenti neanche nei paesi più chiusi e più ottusi. E qui chiudiamo. Così dunque Filippo Bubbico, ospite questa mattina di 24 Mattino. Parliamo del carnevale di Viareggio adesso, perché da quel che abbiamo appreso poco fa dalle agenzie la situazione economica del comune mette a rischio la manifestazione. Saluto Chiara Romanini, che è vice sindaco di Viareggio. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. La denuncia è arrivata dal presidente della Fondazione Carnevale, Stefano Pasquinucci, che dice, insomma, ci stanno di fatto negando i soldi per l'edizione 2015. Che cosa rispondete? È veramente così innanzitutto? Innanzitutto bisogna partire da un fatto, che la città sta vivendo una crisi profonda che viene da molto lontano. Chi ha governato la città negli ultimi 10, 15, 20 anni ha avuto sempre grandi sovvenzionamenti sia dalla regione che dallo Stato. Purtroppo è arrivata la crisi e il freno a mano non è stato tirato. Ora purtroppo scontiamo gli errori che vengono purtroppo da lontano e il freno a mano va tirato in maniera molto forte. Allora Romanini, io voglio capire da lei se veramente il carnevale è a rischio, però io lo vorrei fare in una condizione telefonica decente, quindi facciamo così, per adesso la saluto, la riprendiamo tra un attimo e magari cerchiamo di capire se ha un fisso o un telefono nel quale riusciamo a parlare meglio con lei, e intanto mi sta raggiungendo in studio e attrezzando tutte le cose dal punto di vista delle cuffie, dei volumi, Carlo Genta, ciao Carlo, niente. Ciao. Non funziona niente. Però insomma, possiamo parlare di Real Bayern lo stesso, no? Possiamo parlare di Real Bayern e soprattutto possiamo vederla questa sera, perché io credo sarà uno spettacolo molto diverso da quello che abbiamo visto ieri, anche se a me Atletico Madrid-Chelsea è piaciuta molto, cioè mi è piaciuto molto il Chelsea e qui vado controcorrente, tutti dicono catenaccio Mourinho, senza mezza squadra è andato lì, alla fine non ha rischiato quasi nulla e adesso alla qualificazione per la finale in tasca. Questo Mourinho, stasera vediamo Ancelotti e Guardiola, sfida tra due, ma è quasi pleonastico dirlo, no? Due dei tecnici più gettonati, più vincenti d'Europa, le due squadre più pronosticate, In questi casi si usa dire una finale anticipata, si gioca al meglio delle due partite e non sulla partita secca, credo ne guadagnerà lo spettacolo. Certamente quello di questa sera sarà lo spettacolo più grande, bello e importante in grado di offrire in questo momento il calcio europeo. Ma quindi mi dici, per come hai visto la squadra di Mourinho ieri, non è detto che sia una finale anticipata questa? Perché no, ma dai, lo è, perché da una parte abbiamo le due underdog, come dicono gli americani, cioè le due impronosticabili, le due che in teoria non cioè la sconfitta, la squadra che probabilmente perderà la finale da quella parte, da questa parte le due più forti d'Europa. Dunque i conti sono presto fatti, però sulla partita secca io Mourinho non me lo vorrei mai trovare contro, fosse Ancelotti o fosse Guardiola, chi dei due non si sa, però Mourinho non lo voglio mai contro in una finale, in una partita secca, questo è certo. Un bel pacco di temi per le 14, ti sentiamo dopo. Con tutti i convocati. Abbiamo recuperato il vice sindaco di Viareggio? No, adesso ci proviamo, intanto sentiamo cosa succede sulle strade. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Il caso Stamina, è stata chiusa l'inchiesta di Torino, ci sono 20 indagati tra i quali Davide Vannoni, l'accusa è associazione a delinquere, si parla anche di danni ai pazienti. Ci sarà anche Benedetto XVI alla cerimonia di beatificazione di Roncalli e Wojtyla e incombe su questo la minaccia di uno sciopero dei vigili urbani di Roma. Tra poco le dichiarazioni di voto, poi nel pomeriggio la fiducia, il decreto lavoro è alla prova dell'aula della Camera e pronta la battaglia in Senato. Sta per essere spento l'altoforno dell'acciaieria di Piombino, il Papa riceve un videoappello degli operai e ne parla nell'udienza del mercoledì. Prego per voi. Dopo le polemiche, Renzi rinuncia a partecipare alla partita del cuore. Il paese non merita polemiche così ridicole, lasciamo le meschinità a chi se le può permettere. Ancelotti contro Guardiola in quella che molti chiamano la finale anticipata di Champions. Questa sera in campo Real Madrid contro Bayern Monaco. Abbiamo recuperato Chiara Romanini, vice sindaco di Viareggio, eccoci, vediamo se si sente un po' meglio. Ci sente? Sì. Benissimo. Si sente meglio? Decisamente, ecco. Decisamente meglio. Perfetto. Allora, ci ha fatto tutta la dovuta premessa, però non mi ha detto se questi soldi quindi ci sono per il carnevale di Viareggio oppure no. Allora, i soldi per il carnevale di Viareggio, diciamo che una manifestazione, da 130.000 presenze l'anno, In città al momento, per quello che riguarda il comune di Viareggio, quindi il contributo che il comune versa alla fondazione carnevale, sono a rischio per la situazione che grava sul comune tutto. Noi siamo in attesa del documento del Ministero dell'Economia e delle Finanze che farà chiarezza sui conti e da lì ripartiremo tirando una linea e vedendo quali sono le risorse. Certo è che non si può contare per i prossimi anni su un contributo enorme qual era il migliore 4 che il comune versava ogni anno alla Fondazione Carnevale come è stato fatto in passato. Che noi abbiamo anche la Fondazione Festival Pucciniano. Vice sindaco, ma avete fatto un'analisi di costi-benefici, nel senso che magari uno investe 1.400.000 euro, però poi, dato che ti porta 130.000 persone in città, insomma, tutto sommato magari ti conviene, perché dal punto di vista turistico, degli incassi e delle tasse che poi arrivano sulla gente che va negli alberghi e nei ristoranti, vi ritornano o no? Sì, assolutamente sì, noi abbiamo un indotto che gira attorno al carnevale che è molto molto elevato, penso invidiabile per mezza Italia. È anche vero che il comune di Viareggio, per quanto non sia un comune che fa provincia, ha delle situazioni da supportare come servizi essenziali, penso alla grave situazione sociale che investe il nostro comune, che ci deve far riflettere, che ci deve far ricalibrare tutto il tipo di finanziamento. È anche vero che una manifestazione così grande percepisce dall'esterno, quindi dalle istituzioni pubbliche, solo 110.000 euro. Diciamo che le nostre forze sono concentrate a noi per non impedire il contributo comunale, che non è che noi vogliamo azzerare il contributo, ci mancherebbe altro, però va ricalibrato e soprattutto va cercato altro finanziamento dall'esterno, quindi dalle istituzioni pubbliche a livello centrale, che vengano a riconoscere il carnevale come una manifestazione di interesse non certo solo di Viareggio ma di tutta l'Italia. Grazie Chiara Romanini, vice sindaco di Viareggio, buona giornata. Silvia Chimienti, deputata del Movimento 5 Stelle in Commissione Lavoro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Cos'è che non vi piace del decreto? Non ci piace praticamente tutto quanto, perché è un decreto veramente infelice che insomma non risolverà assolutamente nessuno dei problemi della disoccupazione giovanile non in Italia, anzi andrà ad aggravare la situazione. E perché, scusi? Questo perché i due articoli fondamentali, che sono l'uno e il due, sono sul tempo determinato e sull'apprendistato, adottano misure che vanno nella direzione semplicemente di togliere tutele e diritti ai lavoratori. In particolare per quel che riguarda l'articolo 1 si prevede l'eliminazione della causalità, cioè dell'obbligo di inserire nel contratto a tempo determinato le ragioni, le motivazioni oggettive per cui si stipula questo stesso contratto, sì, e non se ne stipula uno a tempo indeterminato. Quindi questo viola peraltro la direttiva europea 99/70. Senta, però su questa questione delle cause da inserire per quanto riguarda appunto il contratto a tempo determinato, oltre che naturalmente il numero di proroghe, no? La limitazione del numero di proroghe, rischiano però di essere una limitazione per le aziende, che a questo punto potrebbero anche decidere appunto di fermarsi, di non assumere, di non fare contratti. No, non è assolutamente così, nel senso che intanto, come dicevo, è l'Europa che ci dice con questa direttiva 99/70 che è stata emanata proprio per limitare l'abuso, contrastare l'abuso dei contratti a termine, appunto ci dice che tra i criteri che deve essere inserito nel contratto appunto la specifica delle ragioni tecniche, organizzative e produttive. Mi scusi, però in realtà l'Europa impone, se non è erro, 4-5 criteri e puoi scegliere tra alcuni di questi, cioè non è necessario che sia la causalità. Sì, esattamente, solo che noi nel recepire questa direttiva, noi Italia, con il decreto 368 del 2001 abbiamo appunto scelto come criterio questo qui, quindi della specifica appunto della causalità. Dunque, andando a modificare questo decreto che recepiva la direttiva europea, si profila, secondo noi, ma non solo secondo noi, secondo molti esperti, professori universitari, si profila appunto una violazione della direttiva, anche per quel che riguarda proprio i principi ispiratori di questa stessa direttiva, che erano appunto quelli del contrasto dell'abuso dei contratti a termine. Quindi non siamo i soli a dire che si profila questa violazione. Giuristi e i giuristi, ad esempio l'Associazione Giuristi Democratici, che è un'associazione molto autorevole, ha espresso questa posizione. Senta, molto brevemente, Chiminetti, perché abbiamo 30 secondi, so che sono pochi, però le chiederei di farci capire, secondo voi, come si riesce a coniugare l'esigenza di flessibilità delle aziende con l'esigenza di tutela dei lavoratori? Dunque, noi riteniamo che le misure che sono state adottate fino ad oggi vanno nel senso di una maggiore liberalizzazione e non hanno portato effetti, anzi i dati ci dicono il contrario, ci dicono che dalle riforme del pacchetto 3 in avanti la disoccupazione è solo cresciuta. Dunque, noi non crediamo che sia questo, non è cambiando le regole del lavoro che si crea occupazione e lavoro. Dunque, assolutamente noi, per quanto riguarda questo decreto, abbiamo proposto emendamenti che andavano in una direzione del tutto opposta, quindi ad esempio il reinserimento della causalità fin dal primo contratto, un'indennità addirittura di precarietà, quindi noi vogliamo pagare di più la flessibilità, o ad esempio il vincolo di stabilizzazione, quindi il fatto che non si possa assumere a tempo determinato se prima non si stabilisce una percentuale di precari che sia nel proprio organico. E quindi assolutamente noi crediamo che vadano tutelati prima i diritti dei lavoratori e non è appunto non è in questo modo, facendo misure di questo genere, che si crea l'occupazione e che si favoriscono le aziende, anche per quanto riguarda ad esempio l'apprendistato. Allora Chiminetti, io la ringrazio, la ringrazio per essere stata con noi. Adesso dobbiamo chiudere con lei e passare ad un altro argomento. Saluto Claudio Fava, che è deputato di Sinistra Ecologia e Libertà e componente del COPASIR, il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, io non sono più al COPER, sono vicepresidente della Commissione Antimafia, ma comunque dei temi di cui si è occupato il COPER ne sa qualcosa. Come avrete intuito, vogliamo parlare con lui della decisione di ieri da parte del Presidente del Consiglio della declassificazione degli atti relativi a fatti di sangue come quelli di Ustica, Piazza Fontana, Piazza della Loggia, la stazione di Bologna, un dovere verso cittadini e familiari delle vittime, dice il Premier, solo un bluff, replica Grillo. Le dico, Fava, che parliamo tra un attimo con lei, intanto ci sentiamo l'intervista che ha realizzato la nostra Maria Luisa Pezzali con Manlio Milani, che è presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime di Piazza della Loggia. Credo che sia un gesto estremamente importante e significativo in questo momento, perché finalmente viene data applicazione a quella legge del 2007. Il problema si apre adesso, cioè nel senso che in che termini, in che modo verranno consegnati questi materiali. Sono materiali che non sono stati assolutamente né elencati, né classificati, eccetera. Quindi occorrerà un impegno notevole. Intanto è importante che si dica che tutti i documenti devono avere un unico punto di riferimento, che è l'archivio di Stato centrale. Però occorre anche nel contempo che ci siano professionalità e quindi relativi impegni economici, che questi documenti vengano resi fruibili. Allora, Claudio Fava, come la vede questa declassificazione? La vedo come un atto dovuto, tardivo, utile. La vedo come l'applicazione di un dispositivo che era già la legge di riforma del segreto di Stato del 2007, e la vedo come un atto di dignità di un paese che da 20 anni, da 30 anni, colleziona colpe e pochissimi colpevoli. C'è un debito di verità che noi abbiamo non soltanto nei confronti delle famiglie, noi abbiamo un debito di verità nei confronti di questa nazione, nei confronti di chi è figlio di verità negate, di chi è nato dopo Piazza della Loggia, Piazza Fontana, dopo le stragi di Capaci e di Via D'Amelio, e al quale è stata consegnata sulla storia di questo paese una verità parziale o una verità falsa. Ma a cosa serve effettivamente? Perché Grillo dice, appunto, è un bluff, i magistrati a queste carte in realtà avevano già accesso sostanzialmente. Io non delego le funzioni civili di un paese alla magistratura, io difendo l'autonomia, la funzione della magistratura, ma il giudizio politico sulla storia di questo paese non lo delego a un processo, a una sentenza. Le affermazioni di Grillo sono affermazioni che hanno un elemento quasi eversivo, perché l'annullamento di una delle ragioni fondative di una democrazia, in cui la responsabilità dei cittadini, delle istituzioni politiche, non viene dopo quella dei magistrati. E io pretendo da cittadino di essere messo in condizione di conoscere e giudicare in un paese in cui ancora sappiamo che c'è stata la più grande strage di mafia, e per affermazione dei magistrati, che in questo affermano anche la loro impotenza, non sono in condizione di consegnarci verità assolute, e ci dicono: guardate che i mandanti non sono quelli che hanno premuto il grilletto o il bottone del detonatore, quelli che abbiamo sotto processo, ci sono altri mandanti. Cioè c'è un pezzo di storia italiana che è stata occultata allo sguardo di questo paese. Togliere il segreto di Stato sul piano intanto simbolico, e i simboli, è bene che Grillo lo capisca, sono importanti nella storia e nella dignità di un paese, e poi soprattutto mettere in condizione anche di avere elementi ulteriori per capire chi e perché alcune cose sono accadute. In 30 secondi, c'è qualcosa di più da fare? Sempre lo stesso Movimento 5 Stelle dice, per esempio, sul caso Abuomar va tolto il segreto di Stato. Il caso Abuomar, io sono forse l'unico che in questo caso si è battuto, andò al Parlamento Europeo, alla Commissione d'inchiesta fin dal primo giorno, perché non venisse messo un segreto di Stato che in questo paese è stato messo da tutti i governi di tutti i colori politici. Detto questo, io credo che vada tolto su questo come sulle altre vicende, e come veniva ricordato poc'anzi, è necessario che queste informazioni siano finalmente rese utilizzabili, devono tutte convergere all'archivio di Stato, bisogna fare in modo che l'accesso sia anche garantito da un censimento di informazioni che altrimenti rischiano di disperdersi e di essere inutilizzabili. Però il primo passo andava fatto, il primo passo è questo, il primo passo è affermare che il diritto alla verità dei cittadini italiani è superiore da una presunta necessità di tutelare la sicurezza dello Stato, che certo non viene messa in discussione dalle verità di Piazza Fontana, di Piazza della Loggia, e io dico nemmeno di quelle legate al rapimento di Abu Omar, anche se c'è il buon vicinato che ci lega, i buoni rapporti vicinato con gli Stati Uniti d'America. Grazie a Claudio Fava, deputato di Sinistra, Ecologia e Libertà, non più componente del Copasir adesso in Commissione Antimafia. Ci fermiamo, a tra un attimo con la borsa. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Il caso Stamina, è stata chiusa l'inchiesta di Torino, ci sono 20 indagati, tra cui Davide Vannoni. Tra poco le dichiarazioni di voto, poi nel pomeriggio la fiducia e il decreto lavoro alla prova dell'Aula della Camera. Sta per essere spento l'alto forno dell'acciaieria di Piombino, il Papa ai lavoratori, prego per voi. Dopo le polemiche Renzi rinuncia a partecipare alla partita del cuore, il paese non merita polemiche così ridicole, lasciamo le meschinità a chi se le può permettere. La borsa. Borse in diretta. Chiara Di Cristofaro, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno Simone. Allora, la situazione sui mercati è abbastanza negativa oggi, un meno 0,4% sul FTSE O'Share, un meno 0,43% sul FTSE MIB. Cosa succede? In realtà succede che oggi la giornata è praticamente semifestiva, i volumi sono molto scarsi e dopo il rialzo della vigilia oggi gli investitori hanno preferito prendere profitto. Ci sono stati un po' di dati macroeconomici in mattinata, ma diciamo una situazione più che altro attendista quella della giornata di oggi. Singoli titoli da segnalare, Chiara? Sì, un titolo che si è messo in evidenza sin dalle prime battute è stato il Monte dei Paschi, adesso sale del 3%, qui c'è un giudizio positivo degli analisti di Goldman Sachs che stamattina ha pubblicato questo report migliorando il rating da sell, quindi vendere, a neutral, quindi neutrale. Il giudizio è positivo sulla decisione di incrementare l'aumento di capitale, decisione che è stata presa, lo ricordiamo, venerdì scorso, fino a 5 miliardi, perché questo comunque contribuisce a solidificare la base patrimoniale della banca ed è un dato da considerare come positivo. Ancora giù le popolari nel complesso, mi pare, Banco Popolare del 3,15, Ubibanca dell'1,57, Popolare di Milano dell'1,02%, ma avevano corso parecchio nei giorni scorsi, Mediaset c'è dell'1,86. Sì, sono prese di beneficio quelle che riguardano Mediaset, così come quelle che riguardano il Banco Popolare che hai citato. Dopo l'aumento di capitale il Banco Popolare era salito molto e oggi sta ripiegando. Grazie Chiara Di Cristofaro, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buona giornata. Buona giornata a te. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Sono due le notizie appena arrivate, appena battute dalle agenzie. Saranno processate tutte il 16 maggio con il rito abbreviato le 8 persone coinvolte a Roma nell'inchiesta sullo sfruttamento delle due ragazzine che erano state fatte prostituire in un appartamento ai Parioli. Lo ha deciso il GUP di Roma, Costantino De Robbio. L'altra notizia che arriva sempre da Roma e riguarda sempre la giustizia è che il patron della discarica di Malagrotta, Manlio Cerroni, è stato condannato ad un anno di reclusione per le irregolarità legate al gassificatore. Lo ha deciso il giudice monocratico della capitale, che ha anche inflitto una condanna ad 8 mesi per lo storico braccio destro Francesco Rando. L'accusa per i due imputati, entrambi coinvolti anche nell'inchiesta più ampia sulla gestione dei rifiuti nella capitale, è quella di falso in atto pubblico. E noi rimaniamo a Roma. Saluto Stefano Lulli, che è segretario dell'OSPOL, il sindacato di polizia locale della capitale. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a Radio Accusa. Il sindacato dei vigili, per essere chiari, dei pizzardoni, se non so se è diventato offensivo nel frattempo il termine. No, assolutamente no. Allora, da quel che ho capito state progettando, state immaginando, dovete ancora decidere di scioperare il giorno, e qua colgo l'occasione per correggermi con gli ascoltatori che me l'hanno segnalato via SMS, nel giorno della canonizzazione, non della beatificazione di Roncalli e Wojtyla, naturalmente, ogni tanto capita di svariare un po' con le parole. State progettando uno sciopero per quel giorno? Ma stiamo progettando diciamo un'azione di protesta per quel giorno, per i giorni antecedenti, per i prossimi, per i giorni dopo, in virtù diciamo di quello che l'amministrazione sta facendo, di quello che è successo ieri al tavolo delle trattative, dove diciamo si paventano tagli già ai stipendi molto ridotti degli agenti di polizia locale, tagli non giustificati, diciamo una riorganizzazione del tagli corpo, tagli di quanto, Lulli? Tagli di salario accessorio, in cui gli radioascoltatori devono sapere che gli agenti di polizia locale lavorano di domenica, di notte, giorni festivi, capodanno, ferragosto, cioè 365 giorni all'anno, e quindi diciamo per queste tipologie di giornate hanno un salario accessorio che permette quelle 20, 30, 40 euro, quindi non stiamo parlando di cifre enormi, di insomma dare un disagio, un riconoscimento per disagio lavorando, facciamo un esempio, per il giorno di Pasqua o di Pasquetta, dove si stanno a casa per festeggiare. Quindi, diciamo, questi tagli andranno a incidere dai 150 ai 200 euro in busta paga, e quindi ridurre uno stipendio di 1300 euro a 1100 euro. Senta Lulli, però diciamoci la verità, in realtà è fase di trattativa, non sciopereste mai proprio quel giorno. Ma guarda, allora, qui il problema è un altro, qui il problema non è che mai scioperemo quel giorno, perché noi in queste occasioni abbiamo sempre rispettato gli eventi mondiali, abbiamo sempre garantito diciamo, tutti gli eventi mondiali. Qui nasce il problema in cui il corpo ormai non ce la fa più, il corpo ormai vede sempre venire meno il proprio ruolo, sia a livello diciamo di salario, sia a livello di diciamo difese per la propria sicurezza, per la medicina preventiva, per tutto quello che stiamo rivendicando da sei mesi. Senta, che abbiamo fatto lo sciopero. Senta Lulli, poi magari ritorniamo su questa cosa del 27 aprile, e però è vero anche che ci sono dei dati che sono stati diffusi qualche tempo fa e riguardano l'ultimo trimestre del 2013 che impressionano, perché apprendiamo che tra ferie, malattie, assistenza a familiari, corsi di studio e altri motivi, il 23,8% degli agenti è stato assente nell'ultimo trimestre del 2013. Questo mi permetta di rispondere, perché già abbiamo risposto per noti ufficiali, è un dato falsato, ma falsato nel senso in cui non si può prendere quel trimestre, perché nel primo trimestre 2014, come sappiamo, va da gennaio a marzo, ci sono tutte le ferie residue che gli agenti di polizia locale non possono fare durante l'anno per problemi di servizio, in cui obbligatoriamente per legge le debbono prendere. Quindi chiaramente si riversa tutto in quel trimestre, il dato associato che va preso prendendo riferimento i 12 mesi dell'anno, in cui vediamo che le assenze del personale per malattie o per altre tipologie sta intorno all'8-9%. Questo è il dato diciamo in cui si evince nei 12 mesi dell'anno. Questo il dato per quanto riguarda le assenze. Di certo, come dire, il corpo della Polizia Locale di Roma ha una discreta quantità di problemi, si sono susseguite inchieste anche in questi mesi, insomma. Da quel lato c'è un modo per dare risposte da questo punto di vista, anche da parte vostra, dei lavoratori, perché insomma, no, dall'impressione che se ne ha, l'ultima è di questa mattina, insomma, no, un funzionario della polizia locale, un ex vigile in pensione che sono finiti in manette perché sono fatti pagare per evitare la chiusura di un'attività commerciale, però ci sono state parecchie inchieste negli ultimi mesi. Ma questi casi ci sono da ogni parte. Noi come sindacato denunciamo fortemente chi commette violazioni di legge, qualsiasi esso siano. Quindi è una responsabilità loro personale, è giusto che la magistratura interviene, è giusto che l'amministrazione interviene, perciò noi su questi casi non entriamo nel merito, sono casi che succedono in tutte le professionalità